Sì, ho mangiato due cose volanti, un po' di funghi, che la toccata dei funghi, ma non era veramente buoni. Esatto, ma Kumari. Dico, ma Kumari, nel senso, oh via, c'è nessuno. Ma non li ho fatti, ma ho fatto poco fa, mezza schianata con la Nutella, poco fa, questi elementi non li ho fatti. No, io ho mangiato l'insalata russa, una roba volante così, un pezzo di ricotta, roba così, veloce. A tu vai. Ma sono fatta con i carciofi. Ma Manuela è molto ingegnosa, guarda su internet le ricette e quelle fa. Oh, ti fai stare a fumare, no? No, ma segnare. Secondo me tu sì, cioè sì, ho fumato le palle uno di quella canisti, perché se no uno avrebbe già ripresa quest'ora. No, ma vai a dire vai, non lo so, io dico di no, se non avevo domani, adesso riprendo, chi lo sa. Vai a dire mai veramente. Ma lui, sai cosa molte volte ti succedono delle cose, dei problemi. E sembra che la sigaretta ti aiuti, no? Ti accendi la sigaretta e sembra che ti rilassi. Ma non è così. Fumo tagliente, sì. Vedi, ma la mia amica, che usciamo assieme, andavamo in giro, non fumavo me. Diciamo, non era una fumatrice, carita. Però come fumo è poco. Quasi niente, diciamo. Se andiamo a mangiare magari dopo cena sto a fumare la sigaretta, ma poi non sta ore e ore senza fumare. Non fumano ogni tanto, ma lo sai che ti dà fastidio. Certo che lo sai che mi dà fastidio. Ah, lo fa per quello che cosa te ne vai tutto il pacchetto, via. Ma le donne particolarmente fumano, le donne fumano un bel. Se tu dicesse tutte accanite fumando, magari si separano cose, hanno questi problemi, e sembra che li risolvano così con la sigaretta. Lo so, vabbè. Il problema è che tutti abbiamo problemi, di più chi meno, e chi meno chi più. Però purtroppo non è che con la sigaretta risolvi il problema. Ti spendi soldi, non di soldi, soldi buttati secondo me. Ma se male mi sbaglio, vabbè, ma è della Germini, senti la luna. Senti, mi aspetta. La senti. No, andiamo a Gianni. Esci. Qui Gianni, saluta Gianni. Ti dico che stiamo andando a Gianni, ridilo. Luna. Grissini, capiti, li taglio. Vabbè. C'è la senti, che come sentiva che ha più colpato dei biscotti, saltava sul tavolo per dargli. Questi cari, cioè gli animali, vedi per esempio il tuo gatto, ti manca, no? Cioè. Sì, manca. Tu pensa che la prima cosa che facevo la mattina appena mi alzavo, questa salva lì, lo spazzolavo, li pulivo gli occhi, il naso, lo spazzolavo tutto bene, poi gli cambiavo la sabbia, li mettevo da mangiare e lui era a posto, e poi mi preparavo io. Ma sai che per diverse volte sono andato per pulire il gatto, anche quando era morto. Ahia. E dimenticavo, poi mi ricordavo che era morto. Gatto non va, si fa male, è una cosa più forte. Io di vedere quando è morto in braccio a me, no? E c'erano Manuela, il ragazzo Emanuela, mia moglie e Marco, tutti si chiedono il gatto quando mi è morto. Diciamo che poteva essere un figlio, alla fine, quegli animali sono così, ma che cosa c'è di meglio, cosa c'è di senti a Gianni cosa stai dicendo, l'hai sentita Gianni, eh? L'hai sentita Gianni tu, tu Monella, sì, io ho visto Monella, a me Danny invece, io ho visto Monella, tu non lo dici che sei Monella, diglielo, ma glielo dici che sei Monella. Poi molte volte, sai cosa ha fatto già? Gli prendo il muso, no? Ma avvicino all'orecchio, dimmi, e senti niente. Sta cercando di dirmi qualcosa sicuramente. Poi dopo dice, fa lui. Sono belli i cani. Io non ho visto il cane, non lo so cosa vuol dire. Allora, io l'ho avuto per 6 mesi il cane, l'ho fatto grande perché ho trovato questo cuccioletto, un baffo di cotone, ce l'hai presente, bianco bianco, grasso grasso, e stava piovendo a dirotto, sti grandinando. Io mi sono fermato col furgone perché ho visto questo cagnolino che stava attraversando la strada, ma piccolino. Mi sono fermato, aperto lo spottere e c'è entrato dentro, e cosa volevo fare? L'ho mandato via, perché di là era di tutto asciuttato, e l'ho lasciato il furgone, quando mi sono venuto a riandarmi, l'ho preso e me l'ho portato via. Quando l'ho visto mia moglie, oh che bello, però non possiamo tenere, già in casa avevo fatto degli animali, questo con l'altro, e quindi via. No, non cresce, ho parlato con un amico, mi ha detto che è un cane che dalle zampe si vede che non cresce, infatti era tipo un vulpino, quando è cresciuto è diventato tipo un vulpino così. E il pelo lungo lungo, se no va bello, era affezionato con i bambini, con le persone, solo se me ne cani li abbagliavano. E gli zingari gli abbagliavano che cosa amara, però le persone di solito giocavano con i bambini, erano belle socievole, ma c'erano le persone che avevo conosciuto, specialmente ragazze che avevano il cane, li portavano giù. Ci dopo la sera ci davamo la punta, quindi insieme alle 8 così loro giocano e noi parliamo, così. Sembra che abbiamo conosciuto di gente, si fa socializzare anche. È una cosa bella. Ieri che sono sceso c'era un cioè cazzo di cane, un quelli che hanno la lingua viola, che mi avevano pelosi. Un ciuccio. E l'una però no, era maschio, là, 3 anni e mezzo, faceva 4-5 di lei. Le praticamente se la voleva aggroppare. Allora. Allora è femmina, è vero. Vabbè. Ma l'ha fatta accoppiare? Oh, ma non è mai stato più di un bello. Allora? E ti sporca tutto. No, non può capire già. Ma l'ha fatta accoppiare? Una volta almeno. Ma se non è Monella, quella Monella sì. Ma è Danny già. Cosa vuoi? Io la dico che sei Monella. Monella bambina, la bambina piccolina, Monella, che punta da me. Sì, se tu non la volevi un periodo, hai detto che non la volevi più. Te la saresti pentito. Sì, qua c'è dato che è mia madre. E con tua madre, d'accordo qua? Vabbè. Ma sono affettuosi gli animali, specialmente quello che avevo io, perché c'era accorto che l'hanno preso dalla strada, capito? Se ne accorgo mi ha lasciato, però va bene, tutte le persone giocavano i bambini, ci mettevano a correre, mi mordicchiava la gamba, mi scappava, ui, è un po' grandito, non potevo prendervi, l'unica cosa che aveva che non era molto ubbidiente, se ne scappava, devi stare appresso a lui, molte volte, all'inizio quando era piccolo, specialmente, poi quando è diventato un po' più grande, si è già ubbidito. Ma all'inizio, ui, certo appresso a lui, corre da tutte le spalle, mi deve decidere ad andare. Ma vabbè, mia madre ci sta spesso, sempre con mia madre, però quando lì ha una pallina o qualcosa che sta mangiando, tipo che basta un cibo e pulisci i denti, no? Mia madre la ringhia. Dico dammi a secondo ti dice c'è il pane, non mi ringhia, però lo prende e se ne scappa incazzata, però c'è la pallina tranquilla, vada, invece mia madre la ringhia, ce l'ho nella praticamente, quindi mi ha detto ma piano, se tu vai di colpo lei si può girare, si aggancia, ti mossica la mano, E invece, che mi ha chiamato amicizia? Vediamo un po' chi è. Ma senso Silas. Salvatore Marini, non è quella rana? Mi viene una persona vestita, sento un bottone. Capito, già, così. Sono la mattina, va a prendere una birra. Chi sei, lei già? Ma sei, lo sta? Luciano, te la sta? Tu dove le dici? No. Ma aspettando a te che finisci di bere la birra. No, mi adesso sono stato in frigo a prendere, ma dello spingono, che c'è un po' questa abitaggia, boh. Non la trovo né amara né niente, è buona. La trovo buona, boh, chissà. Con la verde? Yes. E anche noi la prendiamo, come si chiama? Est bravo. Sì, sicura che prendiamo anche io. Io la bevo. Quando è fresca è buona. Sì, quando è calda no, è cattafona bella, vedi, quelli che troverò spin buttati, quei ragazzi, calda, senti, ma c'è anche un bel colore, è bella, no, la birra. Oh, però è buona, no? Sì, è buona, la festa è buona. Sì, anche da noi, mia madre, lì, dalle 9 di mattina i tuci ci prendevano la birra, ma non era il bimbi, ma prima i tuci ci prendevano la birra e erano più quelle che rubavano di quelle che compravano. Quando c'è uno arriva alla caccia, con la birra in mano, anzi due bottiglie, una ce l'aveva sotto la birra e l'altra in mano. Se lui mi devo una birra a fare, pum, si spacca la birra e non ci sta sotto al giubbotto. Una bottiglia di birra, vabbè, molte volte siamo non soldi, non sanno come fare. Allora queste persone, io conosco tanti già, quando sono in cura, che prendono il metadone, cioè, per cicciarsi di più, sconvolgersi di più, devo bere la birra, ma è proprio una fiumi, E non parla che per sostituire la droga, ci devono sconvolgere in qualche maniera, prendono alcolici, prendono birra, prendono... In qualche modo ci devono sconvolgere, se no soffrono di più. Sono stracci, si riducono uno straccio. Basta mollarla la droga, non usarla. E così non ne succede. Allora io, queste sono cose volute da loro, perché se uno non è prende di droga. Io quando frequentavo in piazza, c'era le volte che mi hanno offerto acidi, questo, quell'altro, mai bigliato un acido. Ma io neanche già, mai. Cannoni sì, però non ho mai toccato altro, roba pesante, ma eppure ho avuto l'occasione, più volte. ma di un caso, perché non mi è mai interessato. Ma per questo ha detto, mi bisogna mettere la briaghiera, ma io sa cosa, no? No, no. Poi la sera ha detto che prendeva gli acidi come diventata, perché si cancella le cellule cerebrali, sono le uniche cellule del nostro corpo che non ricrescono, non si riproducono quelle cerebrali. Tutte le altre cellule sì, ma quelle cerebrali no. E quindi si cancellano le cellule cerebrali con l'acido e diventi macco, come banana, come gli altri scivaglie. Poi potrei brucia. No, la mia amica dice che si è messa a posto il computer, e va proprio di audio, sai quel programma Pattas, no? Una volta si è entrato tutto, se non hai lo stereo mix a posto, è un casino, ma io ho dovuto comprare la scheda audio esterna, a Napoli. E lei dice che ha messo il sistema operativo e... 7, però dice che non riusciva a mettere la musica. Adesso dice che l'ha messa a posto. Cappagazzo. Oh, vabbè, io l'avevo tolto. L'ho usato poche volte, però, ma io lo usavo prima di scoprire l'ottimo, da un bel tempo fa. Lo usavo con Luciano Carrillo, la microvia. Poi c'erano anche le telefonate. Bling, bling. Devi chiamare anche gente estera, c'era tutto il mondo. Vabbè, prima era così. No, qua è tutto il mondo. Ci sono tante donne già, cavolo. Anche in America, ma donne veramente doc, belle. C'è sono spagnole, io ne conosco più di una. C'è questa Cianniti diva, si chiama Paola, ha 50 anni, se la vedi un pezzo di donna avvicinante, ma bella, già, bella veramente, 50 anni si riporta veramente bene, comporta ragazzine qua, ragazze che sono di 30 anni, che si portano 50 kg di trucco, lei in confronto è più piccola sembra, ma bella, poi si racconta del terrazzo, ma un terrazzo, ui ui. Al balconcino. Balconcione. No, è bella Paola, una bella donna. E io te la appoggio. Meloni, come ti sei preso piano di femmina? Alessio. Miau. Cosa vuoi che ti spoglietti? Ciao Alessio, buonasera. Ciao, saluto da tutti e due. Raga, va avanti. Tu. Poco beh, come va? Bene, bene. Sono contento, caro. Come va, non avvi la Beth Brau? Luca. Oh. Se non mi vedo vicino, c'è. È spento già, è spento, sto accendendo. Adesso devo aspettare, questo tipo gli ha messo a posto la moto. C'ha due casse da 300 watt già, non appaio meno. Anzi, deve piazza, intanto stereo mio, voglio vedere che fine fa. Se la cosa cambia, si aumenta. E se non c'è? Lo appaio meno. Quelli vecchi a mobiletto, ti ricordi? È un po' così, non è che si è messo bene, ma comunque. Con mobiletto è tutto. C'ho l'elettore CD. Adesso con l'elettore CD sono molto meglio con quelle casse da 300 watt. E mi sa che l'amplificatore le può le far spingere con le casse. Facciamo le far spingere. Facciamolo spingere già, non è il problema. Ma quanto è l'amplificatore? No, l'amplificatore non ne ho. Ma lo stereo ce l'avrà incorporato? No, era separatamente, ma penso di sì comunque all'interno, qualcosa ce l'ha. C'ha un tazzino sotto, lo schiacci, allora se non lo schiacci la musica esce normale, però se tu lo schiacci aumenta proprio più forte, bella, come se le stai inserendo il, diciamo il coso, il, aiutami, l'amplificatore. No, poi magari sì, magari è qualche cosa per potenziare. sono anche i bassi, perché ci sono bassi medi, bassi, soft, ci sono tutti i tipi di musica, tutti i tipi di cose, basso, alto, acuto, medio, eccetera, eccetera. Comunque già suona bene, non è male. C'ha due carte, l'accento adesso, però se mi danno le là, ma me l'ha promesso, ha trovato anche la mano. Quello che vuole essere di parola, quelli sono di parola. Se ne manda pure una fanculo. No, no, diceva, perché gli avevate scritto per caso, diceva. Eh? Anche anni si diceva l'amplificatore della 100 watt per casa. Per serio? E allora, se c'è un amplificatore io non posso usarlo qua, lo sai, no? I problemi che c'ho qua, io serio qua non le posso usare, c'ho un amplificatore buttato, anzi l'altro addirittura l'ho dato Giampiero, e tu usalo tu, perché non lo posso usare? Se io uso lo stereo me ne sale quello che avevo di sopra, immediatamente, anche se metto volume, cosa ti posso dire? Neanche la metà di quello che mi dà, hai capito? E guarda, te lo vedi, è nuovo nuovo, mai usato io. Ho preso una volta che l'ho usato, tempo 5 minuti, è stato sopra, girami con gli uomini. Vabbè, che marca è? Questo lì. Telefunken, Telefunken la marca è, 100 watt. Niente, non posso attaccarlo, cosa lascio a quei passi condensatori, non saranno. Lo vieni, te lo guardi e poi ci vediamo d'accordo. Io purtroppo non posso usarlo, mettimi a ridere, davvero vero. Ma purtroppo se attaccano, come ho fatto un'altra volta, lo sai che c'è anche cameretta, vedi, per dire, camera da letto. Lo sarebbe, oppure quel DVD che è amplificato. Bene, ma volume minimo mi concepite quando tu accendi il televisore a casa tua per dire cazzo è salito sopra, lo sento troppo giù, spegnilo cazzo, ma tu hai giocato, perché il bottinatario non risente questo. A me qua non mi ci sente nessuno, poi se dicono qualcosa ti mandano a far culo. Purtroppo io invece devo stare a quello che è, dopo mi girano i coglioni, capito? Sento il gioco delle piazze, qua non è visto le piazze buttate, mai usate. Cioè, la piazza con per metterci un naso, la doppia piazza per mettercene due, la piazza ancora. Quindi non posso usare un cazzo, nulla, niente proprio. Ora così sto usando il barattino in cameretta, perché da questa parte non mi sente. Se lo metto in salone è guai, si sente giù. Ma poi vediamo un po', perché se vuole cartellare non reggono, cioè non ce la fa. Ci vuole un amplificatore a poter pompare. Cazzo, ma io ho cassa da 10, ma non, cioè 10-15 watt sono in cartone, niente che te lo dico, che te lo dica, ti farei vedere e basta, per dire. Cioè, addirittura c'è anche uno stereo che aveva comprato mamma, e non funziona il DVD, cioè il DVD, il CD volevo dire, perché c'era un cassetto bruciato, nuovo pure. E guardate. Sono purtroppo qua in cameretta, non posso usare un cazzo purtroppo, non posso farci niente, finché non cambio casa, adesso vediamo, in seguito cambieremo casa, cazzo non posso fare nulla, se faccio una festa per dire, faccio una cena, gira devi stare cazzo te meno se ne pensa a quello di su, guarda, abbassa le voci. No beh, finché sono in orario, faccio quello che fare. Conta nessuno, poi ovvio c'è un orario, non è che mi posso mettere solo lo stereo, ma non esiste, quello lo posso anche fare, però per non avere problemi, ma già è tardi comunque sia, e vabbè, avanti Gianni è dormito, no, sta ascoltando, sì, allora sono lì per lì. È sbagliato, tu mai detto in gocca, ecco perché ti hanno messo, ci deve rimanere seduto. succede, ma quando sono stanco sono stanco, non riposo proprio con lo comprare. Io adesso mi siedo, ma se mi sdraio ti saluto. Io mi riuca, è un baracchino, alle mani, poi ho detto, adesso vado, mi riposo appena appena alle 5:30. Cos'è che mi sono svegliato? Alle 2:30 di notte. Che è te? E cazzo, ogni giorno alle 6:30 mi alzavo, poi lo stress e le cose, salire sopra il tetto, staccare con una specie di canguro che ho staccato che pesava 30 kg, 2 metri di diametro, in alluminio di coso, ma faccio scendere giù con una corda, guarda che 30 kg ha preso molto, pesano lì. Hai capito? E quindi quando sono andato a casa ero talmente stanco che mi sono bevuto dopo che ho pranzato il minestrone, mi sono bevuto 2 lattine, boh, ciao, ha lamentato fino a 2:30 di notte, mi sono svegliato. Adesso che la faccio bene con l'antenna cantubesa, figurati, è bevuto in traccia in due dentro il garage, perché la sola non ce la fa neanche solo in valle. Sta succedendo, è di 2 metri di diametro, è grossa, sarà da 40, forse 50 di cosa, di alluminio. Ma di baracchino è? Di baracchino, è una multibanda. Cosa pensa qui? Che sta succedendo, cazzo, che pensavo un bene. Insomma, poi questi giorni te la faccio vedere, guarda. Ti ci porto, te la faccio vedere, poi ti dico, sollevami la mano se ce la fai. Maledetto, appena prego la portante. Ciao Antonello, ciao Luca, ciao Gianni. Conosco il segnale ormai, non fuggi più col segnale nuovo, già lo sai. Ciao Fondo. Ciao a tutti. Allora. Ecco, lui è Marco Pipistrello. Marco Pipistrello. Perché ti ho accettato la notte? Per carità, quella Ringo. C'è stata solo un amo sopra, sembra vecchia di anni. Tu immaginati che quella di Elio è stata una settimana che è scesa del tutto. Ma ormai già riuscito a vivo con incassarla. Figurati tu. Eia, boh, materiali scadenti si vede. Addirittura l'anellino che scorre lungo la spirale è grippato con la spirale. Non c'è modo. Non modo più, no. Vuole tagliata la fascetta e messa nuova. A quale fascetta? L'anellino è quello che scorre, col cavo. L'anellino di attone che è sulla spirale. Io ci butto tutto. Una schifezza, sembra vecchia di 10 anni, boh. Ti ho detto, la meglio già lo pulisco io, già ci penso io. Poi siete anche col palo. Lo faccio lavoro. Ho fatto la mantova, ma ieri sera, ho comprato quell'aggeggio per poter pulire. Capito? Così pulisco anche il palo e lo uso per trovare le antenne di qua. Ci volevo la spazzola, mi ho comprato quella caccia dal trappolo, così pulisce tutto. Sono diventato il vitti della mantova, nuove, la passata con la spazzola, allucinante il cazzo, anche lui si lo aveva tolto. Io la pazienza non ce l'ho di lucidare tutto, vitti comprese, piuttosto ce la butto. Non ci butterei niente, già la prendo io. Porta, la portiamo qua e già ci penso io, non ti preoccupare, ti avete un garage e poi faccio un garage perché farò qui pure, non c'è più posto, già c'ho la mattola fuori, è quasi pronta da installare, così metto quella abbiamo 27 e ci metto nuovo la mattola. Poi già la lingua la sistemo, te la faccio diventare nuova, te la faccio diventare. Cioè, di per sé non è nemmeno malvagia se sei in un punto molto alto, però a patto che non piova mai. Sono sicuro che vaselina con l'antenna. Vaselina e basta, il problema è che poi anche la base è quello che magari c'è anche tu. Immaginati che Elio mi ha attaccato lo stilo da dentro la base, quella, visto che c'è quel basamento in plastica che poi isola la massa da positivo. Beh, gli ha attaccato da sopra il vento e gli ha buttato in terra. E quindi gli ha allargato la molla. Comunque l'ha recuperata, c'era a casa sua l'antenna e lì messa da una parte. Via. Va bene, dai, riprendete. Senta, antenna sta arrivando, Santiago 5. Allora Luca, adesso sto usando 4 watt qui, poi dopo 50 metri di cavo non so quanti ne escano dall'antenna. Cioè senza antenna Santiago 5, buh. Vende, ma quanto l'ho detto che vende, se cambia radiali guai, sto dicendo, ecco, adesso è che non c'ho radiali, se no guardate dei cambiati, ma non ce li ho in questo momento. Se mi capitano una Grand Prix, guarda, intera, te stacco quei radiali con te che ci metto quelli lunghi, vedrai che cambia la sensazione. Vabbè, finché non cado a pezzi quelli rimangono lì adesso. Vabbè, quelli che so, vabbè, adesso usa quelli lì, come ce li vuoi girare, già lo sai, ce l'ho questa fatta qua. Va bene, ma io Antonio riprendi, voglio ascoltare il tuo turpiloquio. Il mio? Turpiloquio, cioè parolacce, sempre parolacce. Cosa vuoi che dica il gatto, si va il gatto, avanti il gatto, vediamo che il gatto. Lo vedi? Non l'avevo conosciuto così, l'avevo fatto lavoro io in casa sua, ma anche mio l'ho preso con un gitto, la Monserrata abitava. Ehi, ma chi? Signora, prego. Venga, si è andato gatto, no, che gatto, guardi un attimo, gatto, no, dove mettere il cavo. Detto, signora, aspetta, se cavo un attimo, non ho capito proprio niente, gli ho detto. Prego, aspetta un attimino. Tira. Ciao Antonio. Salute, troppo stazionale, aspetta che abbasso. Così esce a vedere. Già va bene. Perché stazionali hai? Stazionale perché c'ho l'antenna in terra, perché stanno facendo i lavori all'antenna di televisiva per risolvere quel problema di TVI che avevo. Ah, ho capito. E che lavori sono? Basta abbassare i guadagni dei singoli utenti o no? No, a prescindere, c'era l'antenna completamente arrugginita, il palo dell'antenna che veniva tenuto da dei tiranti in acciaio e facevano da radiali riceventi, quindi Vittorio la sta completamente rifacendo l'impianto e niente, dovrebbero migliorare sostanzialmente le cose. E poi che tipo li facevi? Cioè loro cosa vedevano o cosa sentivano? No, abbattimento, non sentivano niente, si bloccava l'immagine. E ovviamente hanno detto che eri tu, magari già ridosse non eri tu, c'era l'antenna rugginosa, il guadagno a manetta. E infatti quello era, a prescindere però cosa fai. Nel momento in cui, quando non c'ero io non succedeva, ci sono io succede, è normale che gli si girano le balle, ma l'unica cosa è aver avvertito un tecnico, comunicazione all'amministratore, se ne sono resi conto e comunque l'antenna andava cambiata. Già togliendo un filtro, perché ancora non l'ha cambiata l'antenna, già togliendo una specie di amplificatore in UHF, già sono cambiate tutte le condizioni, posso aumentare senza nessun problema, però c'ho l'antenna in terra, quindi preferisco, siccome c'ho stazionaria, non pompare. Giusto, allora se non pompi tu non pompo nemmeno io. Ora 400 milliwatt di portante muta. Sì, ma poi facciamo in FM, faccia in FM, dai. Io sto per andare nell'altra stanza, devo fare il drammatico aggiornamento al computer col Service Pack 3. Aspetta, ti devo parlare di una cosa importantissima. Importantissima, io spara. Vai solo in FM. Ma è vera questa storia che è morto con un pugno? Forse te l'abbia... Quanto è guasto là? Pensavo che era così ancora guasto, invece di brì. Cazzo, mamma mia, ancora c'è. Dici che mi bevo la birra. Luca, riprendi. Vado a bere anch'io. Mi senti? Questa è la lattina. Questo è il bicchiere. Buona, allora, guarda di là. Opa, scusate. Salutami, barrando. Questa birra se la bevi fresca è buona. Buona, veramente, va. Buona. Ma se la bevi calda, fa schifo ai cani. Vabbè, cazzo, se le birre fanno schifo ai cani bevute calde. Ma quello è il best brau. Best brau. È la stessa che sto bevendo io. Oh, hai detto che è buona. Io ho qua, credimi. La trovo più buona della Cnusa. E chi la vende? Se lo spingi. No, a me piace molto quella di LD. Quella da 12 gradi, rossa. La Orange Boom. No, io prendo questa qua perché so, quella colpo sicuro ormai l'ho bevuta più volte, anche a casa l'ho contratta. Però a casa mi dura una settimana di più. Sì, ma se tu guardi, c'è scritto Best Brau, ma è una birra italiana che credo che sia stata, che sia imbottigliata, infatti a Udine, nella stessa fabbrica, e questa qua altro non è che da poco hanno fatto vedere una specie di elenco di marche che vendono all'Eurospin, che poi che vengono prodotte da case molto importanti, tipo la Best Brau viene prodotta dalla birra Castello, dalla birra addirittura Moretti, adesso non ricordo quali delle due, comunque è un'ottima birra. Allora, ma è una birra tedesca questa, Eurospin in Italia, vabbè. Poi, flotta convenzionata per prendere, ma è una birra tedesca. C'è scritto, non un ugazzo tedesca, italiana, c'è scritto prodotto e confezionato per... Allora, prodotto e confezionato per... Via Campalto, 3D, San Martino, Bari, Verona. Trattamento, io la verità, non so se quella in bottiglia... La bottiglia marroncina è uguale come gusto, non mi preso, io ho preso solo le lattine. Sono uguali. E comunque questa qua è prodotta a Udine, e a Udine c'è la birra Castello, che era l'ex birra Moretti, Baffo d'Oro, quella. Ed è la stessa, quindi è buona, ma a me piace molto. Ma qual è quella con la lattina verde? Leia. E la prende anche a mamma quella, sì, la gusto. Tra l'altro io mi puoi dare qualsiasi birra, non sento differenza. A parte tipo quelle a gradazione alcolica alta, tipo la Didemon, Delirium Tremens, eccetera. Ma la scelta migliore delle birre ce l'ha l'Ocean. Se poi c'è uno scaffale, ce ne sono alcune, tipo la EQ, che sono anche 15 gradi. Minchia, l'ho visto, io passo sempre per vedere se ricompare la Delirium Tremens, non l'hanno mai più portata, era fino a un paio d'anni fa, un anno e mezzo, dai. Sì, già lo so, le avevo prese quasi tutte, mi era stata a capo e ne avevo presa una di ognuna per assaggiarle e ogni giorno me ne facevo una diversa. E l'hai mai provata quella birra chiamata Buffa, dove c'è la maschera sarda, pure la pecora disegnata? No, gli stabilimenti che ho provato di birre sarde, veramente sarde, perché l'Icnusa ci fanno credere che è sarda quando l'ha comprata l'Heineken ormai dal 1984, come si è comprata tutte le birre regionali, tipo in Sicilia c'è la birra che si chiama Messina, ed è al pari della nostra Icnusa. E lo stesso la spacciano per birra siciliana quando poi realmente viene fatta dalla Heineken, è di proprietà della Heineken, quindi non ci guadagnano né i sardi né tantomeno viene fatta in Sardegna. Ad esempio noi credo che l'Icnusa dia da lavorare a 10 sardi, non di più, perché nello stabilimento di Cagliari lavorano in 10 all'imbottigliamento, figurati. A prescindere da questo, cos'è che stavamo dicendo? Cazzate, non me lo ricordo. Ho gustato anche la birra cruda, la Ichnusa. Non ho sentito differenze. L'unica birra che mi aveva colpito era all'emiciclo Garibaldi, tanti anni fa, era birra sfusa artigianale. Ho preso un bicchiere, era veramente corposa, buona. Ti sei cagato addosso dopo. Allora, le birre, stiamo parlando delle birre che vengono fatte in Sardegna realmente. Nel Sassarese sono la Sambrinus, che infatti prendeva il nome dallo stesso locale in cui veniva servita, che però si chiamava Gambrinus, era dei fratelli, lui si chiama, non me lo ricordo, comunque la fa lui, ed è una birra purtroppo, per come la fa lui è buona, buona d'inverno, però d'estate tende ad avere troppi sbalzi di temperatura, essendo una birra cruda, ne soffre parecchio e si inacidisce, quindi è buona d'inverno ed estate è una gaggadda. Dopodiché c'è la Dolmen, che invece è di uno che la fa a Uri, e adesso sono usciti un gruppo che si chiama 2P, che sta vincendo premi a buttatura come master birrai, però la vendono a un prezzo eccessivo, tipo mi sembra che la bottiglia costi 8 euro, una cosa del genere. E poi cosa c'era? C'era allora la Dolmen, la Sambrinus e la... ce n'era un'altra, non me lo ricordo. Prego. Allora, il discorso è... io non capisco una cosa, l'ha registrato il Black. L'Ichnusa mi fa male di testa, anche una bottiglia per dire, ma molto volte anche un bicchiere, due bicchieri, da. Ma c'è questa qua, no, capisco il perché, poi questa qua c'è i gradi, uguali, cioè, aspetta, 4, 4, 5 gradi, poi comunque. Avanti Black. Buonasera Gabino, buonasera a tutti. Bella Gabi, fondo scala, bella Gabi. Ciao Gabi, salutoni, non so se mi ascolti. Salutoni a tutti. Dove sei? Ma sei in fase di trasferimento? Mi ascolti? Ehi, magari ci sono controlli in strada, deve manovrare. Gabi, mi ascolti? Attento Gabino, ammio. Senta adesso. Qual era la birra? C'era Paoletto, Trazzurro mi pare. Sì, era Trazzurro. Peraltro, quando è entrato mi pare si chiamasse Trazzurro. Subito dopo ho cambiato con Falcone. Trattino, scusa. Sta parte la luce dello Smith. Chi è? Entrato. Gabino. E dove sei Gabi? Sto facendo un giretto, tu. Ma ferma di là qualche parte che c'è il segnale altalenante, sì, comunque fondo scala. Sono in giro, facendo un giretto. No, niente, sono entrato per vedere un po' com'era oggi. Oggi sei a fondo scala, ma sei con la tua 25. Deve far sentire queste cose, che poi si lamenta delle persone che frequenti. Negativo Antonio, la mia 25 si sta appassionando anche lì. Allora evitiamo che si appassioni, faccio venire avanti Ponio, avanti Pomponio, fagliele passare la voglia di ascoltarti. No, parla so che a me scappa la vista. Che mi scappava l'esame a tu. Allora, non so se mi sta ascoltando la 25 di Calvino, ma te lo sconsiglio, c'è un problema a Chino. È gentaglia, ma credimi, è gentaglia. Ma è gentaglia, è gente brutta e poco educata anche. No, dai. Buona a tutti quelli che sono in ruota. Joker di tanti anni fa, sì. Ma che c'era un Joker, era di carica questo qua. È entrato, vabbè, non so, 2 anni fa, perché poi anche l'avevo staccato, ma c'era tanti anni in frequenza. facciamo la persona educata, dai. Ben sentito, ben ascoltato, Joker, sei in compagnia del sottoscritto Antonio Grode, del grande Antonio Grode, di Antonello Noto Pomponio, vabbè, di Luca Manicomio, e dopodiché chi c'era in ruota anche? Ah, è di Marcolino Condom. Buonasera a todos. Eia, conservature, lubrificato, conservatoio. Rotto però. Antonio, siamo spaccato. Brutto? Spaccato? Cioè davvero l'avete usata? È uno privato più di quattro. Cazzo, scusando, allora doveva essere, allora doveva avere le mutande anche di ferro però. Cazzo, non posso mai pensare. Mica si bruciano, mica prende fuoco. Ha sciolto la cannuccia tu. Mamma mia, l'ha maledetto, mamma mia, ma dove sei capito? Sei a quando scala qua? Dove la sei? Ho avuto un'idea. No, sono Antonio, sono Luca. Buonasera Luca, buonasera. Sempre al solito posto. Sei a quando scala qua? Stai facendo il tutto. Che idea hai avuto però? Adesso mi hai fatto venire la curiosità. Quella che mi hai detto stamattina tu, Antonio. Però me la devi ricordare, perché io di idee ne ho tante, ma la maggior parte sono cagate. Mila Yor. Beh. Anche la Sirio Performer 5000 non è male. Tanto, ma che non mi fa la loro abbassa. Devo abbassare, aspetta. Sono meglio qua. Tutto il compressore. Sì, aspetta che attacco il condizionatore allora. Adesso già vai bene. Piuttosto prendi i fini e alzano. Ho capito. Ma cosa hai detto, dottore? Ma sei compressore? Sì, la togli il coso, il compressore dove togli. Processore, il compressore. Mannaggia, la compressore è il processore, ma giunta. Niente altro. Capino, che non sei capì, sei a fondo scala qua. Niente, sono a Sassari ragazzi, sto salendo su al monte, sto andando al quadrato così mi sento meglio. Capito Antu, sono salito a Sassari. Io sono al monte, zona vicino alla chiesa, dai. Sto andando in piazza dei Segni. Sei vicino a me allora, dai. Va bene. Vieni qua vicino, vieni. Qui Smith. Io sbacco io qua lo Smith. Vieni al quadrato che sei 50 metri da casa mia. Andrò. Gaba gaba. Adesso ti sento però altalenante come segnale. Di essere... Ma il Ponte Nuovo hai fatto già. Dovresti essere zona... Via degli Astronauti. Quell'antenna che mi stava rifettando, quella che ti ho fatto vedere. Adesso a parte di scherzo. E sono salito a Sassari per vedere come era. Perché sicuramente... Vabbè, però se a stazionario o comunque in corto, a prescindere da Porto Torres o da Sassari, non è quello il problema. Però adesso stai andando bene, adesso stai andando più che bene. Sai che, ti ripeto, io questo B-band 4327 non l'avevo mai sentito. Ora spengo la Shabbat, tu. Ma l'apparato... con l'antenna? No, allora lui ha un'antenna 4327. Marca? Wrangler. Oh. Io voglio prendere compatta per la macchina la LEM AT1063. Guarda, le migliori per le macchine sono la PL Minox 700, quella che avevo io. Se qualcuno ha avuto l'idea di rubarmi, ma prima o poi gliela trovo con l'antenna, gliela rigiro a culo, non per altro, perché era stata settata per la massa della mia macchina, quindi non so cosa se ne faccia. Si dovrebbe comprare prima la Golf Cabrio per potercela mettere. L'ho rubata io, me l'ho messa in culo. Cazzo, allora ti piace il fine, ti piacciono fine, Claudio. No, dall'altra parte l'ho usata, dal manico. Parlate bene, che siamo in presenza di una greco L, non è di caso. Buonasera. Buonasera a todos, dai, sono entrato per salutarvi. Salutiamo anche la greco L, allora. Chiedo perdono, però, 100 gusti in 1000 malanni, non c'entra niente, dai. Va bene così, fine o grosso, l'importante è che sia andato tutto bene. Buonasera a tutti, baci e abbracci. Vado a Nana, dai, che domani mattina mi devo alzare presto. Avanti, Anturi, prendi. Buon 144 e buona giornata per domani, dai, buon trabacco. Avanti, il condom. Ehi, ciao Claudio, non la conosco con l'antenna, l'ho detto. Ho chiesto peraltro l'altro giorno se potevo bucare il tettuccio della macchina, ha detto che se lo faccio mi buca la fronte. Guarda che è quella che c'è Gianni, lui si è modificato lo stile, però realmente la bobina di carica del piede è quella della PLV Inox. Lo so, però resta sempre un'antenna molto corta. La mia base magnetica è alta 1,60 m, non è nemmeno delle più corte. Avevo una così, proprio per città, per quando entri da Oceano, roba del genere. E infatti, per evitare di sembrare un coso, un autoscontro. Davi, ma sei uscita adesso dal circolo? Ti stavo dicendo, sei uscita adesso? Fra 6:09:30, radio 5 perfetta. Ah, vai benissimo. Chi c'è in piazza dei Cigni? Piazzale c'è. Ho detto piazzale è rimasto in piazza dei Cigni. Vabbè, se ragazzi se ne vanno. Ma sai dove, guarda. Hanno aperto un locale che si chiama. Ti dico come. Si chiama Farda. Ecco, si chiama. È in via di Vitelloni, in via adesso non mi ricordo, sa che va in Grassassa di tu. Vediamo, stai ascoltando anche la radio? K Roger, Gabba, prendi Pomponio. Comunque c'è più basso di te, ho capito perché lui si è impiegato il segno, è strano. Secondo me se sta usando quell'antenna che diceva, c'è qualche problemino su quell'antenna, deve avere un po' di stazionari. Oh, ma c'è una cosa, però comunque se noti bene, è stabile, poi c'è dei picchi allucinanti, arriva anche a 9,25 addirittura. Ehi, te l'ho detto, se c'è qualche problema. Andare. Avanti Marco. Signori, vi saluto, dai, vado a installare questo SP3 sul computer, speriamo bene, dai. Ciao Antonello, Luca, Antonio, Gavino, Claudio, tutti quanti, dai, buonanotte. Aspetta un attimino, a parte gli scherzi, che ti devo dire una cosa importante. No, aspetta, questo bisogna installare, vai su XP. Allora, il service pack 3 sul CB, ho detto, sul computer, sul PC. Sul PC, su XP. Eia. Ma se XP lo stavo levando, quella cazzo, ma la bocca mia metti Windows 7, di Ultimate no, un premium, metti quella grande, ma cosa stai via a fare il tempo? Oh no, non esiste, quel computer è del 2002, c'ha XP. Non lo regge Windows 7, quello lì. Non lo regge 7, allucinante. No, 7 non lo voglio assolutamente, piuttosto mi tengo XP. Cazzo XP a quarto mese, poi tranquilli per come ti posso amare. Non ci sono gli aggiornamenti, non sono più aggiornamenti. Vabbè, bene o male, pazienza, c'è Kerio Firewall, c'è l'antivirus Avast, di più non so, tre, un portatile e due fissi, tutti con XP. Oh Luca Diarrea, sentimi un attimino, quant'è che prendi per resettare il computer? A te 50. Con la condizionale o senza? La condizionale. Obbligo della firma, quanto prendi, aiuto? Non so cos'è, Windows 7, ora c'è, il sistema operativo hai? Boh, quello va bene metterci qualsiasi sistema operativo, uno è nuovo e l'altro è vecchio, cioè uno sarà di 5 anni fa, l'altro è comprato io l'anno scorso. Allora, il discorso è, se è di 5 anni fa l'ha vista, ma la si può mettere, tutto dipende dalla RAM, tu. E da un giga di RAM cosa vuoi fare per andare? No, mi sembra che ne abbia 2 o addirittura 4, boh, non me lo ricordo. Vabbè, se ne ha 4 va bene, se ne ha 2 va bene lo stesso. Il mio gli ho messo, era vista, è nato con vista, ho messo 7. Windows 7 con 2 giga di RAM, la Puglia, e la grande. No, ma anche il mio è nato con vista, da poi è diventato giga. Ma così è. Eia, no, guarda, me lo farei io il lavoro, ma non ne ho voglia, quindi se mi fai un prezzo buono te lo, è possibile che te ne dia 2. Ah, tu, ne avevi 30 euro di prendo, ok? Appunto. E invece che siamo nemici, cosa mi prendi? Ehi, 30 lo stesso, guarda. Entra per tutte e due. Sì, ti faccio anche senza però, Senza? Per quanto è 30 per tutte e due? Ma ti pare di bibliotecario va tutte e due tu? Quanto vuole un tecnico per fare un PC? 83 euro. Ho capito, quanto mi prendi per tutte e due? 30 euro l'uno, 30 euro l'uno, se no io dipende. E la settare e poi vabbè, ci sono altri lavori da fare, se c'era pure l'avvento, bisogna smontarlo, se c'era pure la tastiera, bisogna smontarla, pulirla. E un PC, ma non lo sporco, lo consegno pulito. Sì. E 50 tutte e due? Vabbè, forse più di 50 euro, avanza. Vabbè, è che devo finire dei lavori, è possibile all'inizio della prossima settimana. Va bene, bene, sono qua io. Per portare un altro, un tipo, non si è visto, buh. Mi domandali che tu biglia, buh, cioè. Tanto lo sanno il tecnico prendeva la cifra lì. Ma se si prova non lo porta, ma grazie a Dio non ho avuto mai problemi per fare un PC. Non si informate e si mettono di nuovo sui driver, eh? Va bene. Ma non ha mai avuto problemi. Ma perché? Marcolino, Marco. Sai che c'è il pendolo che suona. Oh, dimmi tutto. Computerai tu il sistema. Oh, non lo so se sia un XP o Windows 7. Ma forse tu hai 8, se ne è uno nuovo è 8. L'anno scorso, forse 8 o 7, non me lo ricordo. Ma io 8 non ce l'ho, se vuoi ti metto 7. 8 fa praticamente cagare. Guarda, se fosse per me ci rimetterei il 2000, che era quello che girava meglio. D'accordo. Anto, sai come sono definiti Windows 8 e 7 da intenditori? I blockware. Sì, ma infatti, guarda, poi più Windows si è avvicinato e ha cercato di assomigliare all'Apple e più ha fatto cagate, proprio. Sono dei chiodi micidiali che si tirano dentro tanta di quella mondetta da internet che la metà basta. Il problema è proprio questo, che adesso non riesco più a navigare perché si aprono 2000 pagine ed è una rottura di coglioni. Perché e voi non sapete usare i computer, installate altri browser, tipo Mozilla, tipo quello, guardate, si usa Explorer, è lento, ci mette un secondo, due secondi in più ad aprire una pagina, ma è pulita, pulito, è pulito, non prendi mondezza, se vi fissate appunto Mozilla, eccetera, eccetera. Anto. Sì. Ora io per non aprire pagine su XP con Explorer ho attivato il blocco dei pop-up ed è raro che si aprano altre pagine non richieste. E com'è che ci si arriva? Ricordamelo. Ah, i pop-up si va, guarda, aspetta. So, tu cosa usi? Mozilla, cosa usi? Sorra Explorer uso, cosa Mozilla? Allora, per i pop-up si va su postazioni. Aspetta, non mi ricordo, io non ho mai avuto problemi. Allora, file, no? Adesso non mi ricordo che cavolo è. Non ho mai avuto problemi, mai. Tu sicuramente tanto hai installato qualche programma? Tu il programma ne hai installato, sì. Ehi, sicuramente, non tanto io, la mia ragazza. Ah, ma se vuoi cercare altro il programma. E quindi stanno uscendo a buttatura che tipo ha fatto. Tanto è poco pericoloso, mi. Vabbè, invece c'è mondezza nel computer. Allora, ecco qua. Allora, si va in alto su strumenti. Strumenti, blocco pop-up. Dritto, attiva, attiva, blocco pop-up. Ok, provo a farlo un attimo. Vabbè, Gabino è rientrato. Però dove tirano? Arrivati un controllo, ne parlo di controllo prima. Per vedere se c'hai qualche tollbar. Sicuramente ce l'ho. Dunque, c'è il PC, sono... io non installo niente, installo quando lo so io. Lo controllo prima, lo installo e poi lo installo. Caro, vado su internet e me lo installo dopo. A casino se ne parlo. Guarda, te lo saresti preso domani stesso, perché fine del lavoro. Tra l'altro in tutte e due, quindi te ne prendi per un paio di giorni, te ne prendi uno e poi l'altro te lo do in seguito. Scusa, per i giorni, se tu me lo porti la mattina alla sala te lo consegno. Ma stai scherzando? Non te lo dico come, li chiamano, ok, te lo do. Adesso gli aggiornamenti li sai fare, sì. Sì, l'unica cosa è che ci sono le foto delle donne nude, non è che te le guardi, no? Ma quale dire, puoi anche le fare, ma le dai senza quello, mi interessa. Ma io una volta metto il CD, sparisce tutto. Antivirus stai usando? Free? No, non ne sto usando. Come lo sto usando? Oh, non servono a niente gli antivirus, ti tirano dentro le cose. Vabbè, per sicurezza si usa poi. Io lo uso, io ho messo quello suo, della Microsoft. Security Essentia. No, a qualcosa serve, ma non è che ti salva. Non so, per certo, comunque un po' ti aiuta, dai. Mentre qualche virus ti avvisa. Vabbè, se lo rubo io non è buonimo, ma comunque. Beh, era tu che stava operativo monta, se 32 bit o 64? Non credo sia 64. Vabbè, non c'è problema. Poi bisogna avere se tu vuoi un ultimate o un premium. Ne ho tanti sistemi operativi. No, come stai dicendo, come antivirus va bene a GV. Ah, questa carta AVG è finita. Io sto dicendo, sistema operativo, quale vuoi? Se vuoi l'ultimate o vuoi un premium, ne ho tanti. Premium, che mi piace di più, premium. Ma boccando, ma non come li porti. Prima per i porti cosa te li faccio? Perché se poi mi porta quello là, ma comunque già, tutti e due sotto. Mi metto il CD e via, faccio attare insieme. No, certo che sì. Gabi, sei rientrato? Vabbè, che ti frego l'uscita, Marco Condom. Signori, buonasera a tutti, mi sa che mi sto addormentando. Buonanotte, fate da bravi e baciatevi in bocca. Ciao. Ciao a tutti, ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti, domani. Buon pollo, saluti. Un attimo. Adesso fallo con la bocca e ti guadagni il pane, va? Guarda, come vedo la birra a me. Lo ti giuro, guarda, senti. La lapida, figurati. Bette bravo, quella merda. Mi sembrava un rumore di sciolta che ti stessi cagando addosso. Cagato che ti vedano. Ma guarda, ti vengono te, invece. Ma dove vedo la birra? Pensavo l'avessi riconosciuto, ma anche se sono da ballo da... per andare, cioè penso dove sei ritratto. Comunque salute, bella birra. Figlie prostitute. Se bevi la birra come bevi il brodo, per forza. O comunque, ciao. Sentire, dovevo fare un irrutto. Irrutto potevo fare, no? Comunque è vero, sembrava un rumore di sciolta. Ma tutto non potevo fargliela, scusa, se mi facevo tutto mi pigliava per cosa, quindi va, no. E perché no, io i rutti li faccio con l'eco. Vabbè, Marca, scusa, quando te bevendo la mattina, non è come bere la bottiglia, che è il discorso di... è diverso, ho capito la cosa. per fare sentire che stavo vivendo la bila, se no che mi si sentiva il traverso con le chiamate. Io la bira non la bevo dalla mattina, anche se è fuori non c'è bicchieri, perciò chiede quello, dice di vetro grosso, la butto lì. Sì, vabbè, se per questo giù a casa di mamma ci sono i bicchieri Napoleone, mica vado a usare quelli, no? Ma se non casa me quei bicchieri, sono ributtati da 20 anni, figurati, placati no, come lo saluta. Io la birra me la bevo così la mattina, non è che non mi metto il bicchiere, tanto sono da solo, fuori stato in due magari, allora il discorso è diverso, capito Luca? Se ti sei da solo va bene la mattina, a me però sei in bottiglia, bevi direttamente dalla bottiglia, a me, per dire, quando mi serve un peroncino, non lo metto nel bicchiere, me lo bevo direttamente dalla bottiglia, faccio prima. Poi vabbè, è congelato, devo essere più di me, quindi devi stare molto attento come lo bevi. E poi ti mettono le patatine, ti blocca la stomaco e si è fregato. Beh, però piano, che si è fredda, piano. Sono pressa, però pressa non naggio. Poi io con la roba fredda non vado molto d'accordo. Ho preso fatto ghiacciata, anche d'estate. Ma cazzo, fa una bella acqua ghiacciata di botto. Io ti ammazza. No, piano. Invece di metterci 10 secondi, se tardi ce ne metto 30 secondi. Tu quello che ci metterebbe bella birra. Se ti dico di bene, vabbè, sono passati tanti anni ormai. C'era il Gabbino di San Giovanni, lo ricordi, quello che era fissato con Falcone, cioè quella che era Falcone fissato con lui. Ma noi siamo saliti qua sopra, c'erano delle, lo sai, sulla alberghiera c'erano due ragazzi che lavoravano di lì. E siamo messi a bere la birra, beh lui beveva un whisky, non mi ricordo cosa, e tu mica ti fa mai, ti accompagno io. Ma lo sai invece, cazzo, mi sono pigliato da un panino a caldo e bevuto la birra fredda e poi sono uscito in moto. Come sono uscito in moto, cazzo, mi ha accompagnato lui a casa perché mi ha fatto blocco di stomaco, ho dovuto aspettare 3-4 minuti, muovermi, se no stavo male, ma abbiamo male, mi ha abbigliato proprio. Poi ho lasciato la moto a casa e l'ho accompagnato io. Andrea Malicomio era a casa sua di San Giovanni, un amico di Gabbino. Vabbè, già è buona la birra, d'estate soprattutto, rimane un po' meno. Adesso, a parte della ricca, mi stavo facendo, ho preso l'alcol, stavo facendo la crema di limoncino, ma buona, io l'ho già assaggiata, fatta da lì, 4 litri. Ho preso un litro di alcol, poi ci vuole il latte, poi non so cosa ci mette altro in mezzo. Comunque ne escono 4 litri, me ne metto 2 in freezer, me le conservo. Sì, vabbè, ma ormai col pezzo che ci sono, ho capito, non è che, cioè finché te lo fai a casa tua, sai che la roba buona e basta, se non ci metti, però a un certo punto come spesa. Ecco, vai a comprare direttamente già pronto, perché lo spini, per dire, crema di whisky, la bagiana, 3 euro e tu di quanti ne vuoi, per dire, o il limoncello. Poi c'è limoncello l'acqua, limoncello la crema, dipende. Comunque siamo i pezzi che ci sono adesso, non conviene neanche a fare, cioè, c'era quella di, sopra casa di mamma che c'ha una campagna, beh, quella fa crema whisky, limoncello, poi cosa fa il mirto, cazzo, ma se l'assaggi 2 bicchieri, cazzo, di come fa mica, cazzo, me l'ha fatto assaggiare a me, dice bevi, se continua a bere tu non so neanche a metterci più la presa, gli ho detto. Ma questo è fatto in casa? E lo fa in casa il marito, tu lo stai dicendo, tu fai cacciare la campagna, lo fa in casa il marito, ma tu dovresti vedere lei quanto le ciuccia di quella roba lì, a casa sua. Te lo sto dicendo, a me me l'aveva regalato una bottiglia, ma quando l'ho assaggiata era veramente buona, la verità, però è allucinante, non ti puoi fidare a bella così perché è forte, capito, però è buona, cioè si sente che è fatta in casa, non è che sia fatta in negozio. Si sente la differenza del sapore, capito quello che ti voglio dire? E è buona, e però è devi bella piano piano, non è che devi bella cazzo come fosse quella di Rospi, che te ne bevi un mezzo litro per io non ti fate un cazzo. Ma lì beh, passa un bicchiere, due bicchieri, poi che bolla tutto e lascia perdere, perché è meglio. Avanti Marco. Ehi, mi ero assentato un attimo. Ma no, scusa, no, tutto, lo fa Napoli. Cioè, bevi la scaletta. L'ho preparato per una cosa. Stasera ce la dovevo io le calecca, non ne ho mai pensato uno, e ho fatto il papà, ho dato la messa, stasera. Oh, un po', oh, 10 centimetri, va? E adesso vicino, come meglio le femme? Ma per me non cambia dove vuole, vabbè, questo batteri. Ti schiare, va? Vedrai che si cracca tutto. È esagerato. Oh, ho adocchiato l'aggeggio, Marco, in casa di una persona, ieri. Devo chiedere a vedere quanto ne vuole. Bello, eh? Veramente bello. Dipende che aggeggio è. Intorno ai 300 euro. I tong? No, non è il tong, non è quello. Però c'è anche un bel po' di antenne. Capito? Belle, nuove, nuove, nuove, siamo uscite dal negozio. Capito? Adesso le ho adocchiate e devo valutare un pochettino. Perché ho parlato con la persona interessata, capito? Ehi già, che bello uscire con. Addirittura è sceso da 300 milliwatt, vicinanti, com'è il segnale da lì? 9.10, 6, 4, 5, perfetta. Quindi in città, altro che stare con 30, 40 watt, 50. Però poi 300 milliwatt, basta. Esagerato. Oh, Giulia. Io non ti buttare nulla di quella roba che ti stavo dicendo stasera, mica, tu che... C'ho il trappano, ho comprato quella di Giulia e pulisco tutto. Si è stimato il palo, cazzo. Facciamo nuovo, nuovo come l'anno a volta, lì mettiamo che mettiamo quello che è. Ma almeno torna nuovo. C'hai di riserva almeno, là. Poi un'altra cosa, ve la ringo, è che la sezione a metà altezza, no, le due sezioni si sono quasi collate, incollate. Una volta ero riuscito a aprirle con l'aiuto di qualcuno, forse in due o in quattro, tirando forte, si separano. Bisognerebbe metterci sempre vaselina quando le inserisci, perché tendono a inchiodarsi. Praticamente le sezioni di mezzo sono, le due sezioni di mezzo. E ci penso io, non ti preoccupare, già dove prendo quello sbloccante dal ventino, l'ho trovato l'altro giorno, e lui c'era il telefonino 49 euro una volta, il telefonino touch screen da polso, in pratica come l'orologio, però qua c'è l'orologio e poi la telefonina. Yeah, va bene, io quasi vado. Ho lavorato la spacca, Antonè. Casomai se non è recuperabile in Windows, ci sono dei sistemi Linux moderni e sono leggerissimi, vanno bene su computer vecchi anche di 10-15 anni e hanno un'interfaccia Windows. Praticamente sembra che stai lavorando in Windows. Molto facilitato l'accesso e tutto, vuol dire che mi abituerò, cosa che ti dico? Ah, non lo so il mio come sia, io ho l'XP lo stesso, in questo grande, però la cosa sta funzionando. Io sapevo che lo bloccavano il 10 di aprile, poi ancora non è successo niente, capito? Al limite, se il mio regge ti tiene il mio, cosa vuoi ti dica io? Perché io sono portatile e c'ho Windows 7 e mi aggancio alla rete di mio fratello, capito? Dal primo piano, funziona benissimo. C'ho il portatile, già l'hai visto quello piccolino, è molto molto meglio di questo qua, cercato le basi, la verità. Io. Comunque il service pack 3 che qualcuno ha consigliato di mettere per tappare tutte le falle residue è disponibile, l'ho scaricato dal sito, è in formato ISO, formato masterizzabile, e ho fatto il CD masterizzato con questo service pack 3. Provo a metterlo e se va va, se hanno pazienza. Comunque sapevo dal 10 di aprile 10 era venerdì, mi sembra giusto. Io sapevo tipo l'8 aprile, aggiornamenti nuovi non ce ne saranno più, però i vecchi penso siano disponibili. Tronde il service pack 3 l'ho scaricato, sai dove? Da Microsoft nella sezione download. Ho capito, e vabbè, al limite lo scaricheremo anche qua, lo devo scaricare io, se no il computer piccolo mi piace un cazzo, la moto sta vicino a casa e se va bene non mi interessa un cazzo. C'è portato, c'è Windows 7, che è molto meglio di questo qua, meno i filmati si vedono molto più veloci, eccetera, eccetera. E poi già sai, io ho due reti di ricezione, c'ho quella dell'hotel e quella di mio fratello adesso, quindi sono agganciato in due, cioè se vado in salone prendo giù, se vado dove sono adesso prendo l'hotel, e quindi ho due possibilità. Guarda, l'importante è avere, proprio non puoi più aggiornare in futuro, avere un buon firewall tipo Kerry o simili, un buon antivirus, possibilmente a pagamento, perché quelli gratuiti non bloccano tutto, sembrano anzi fatti apposta per far passare alcuni virus, te li rileva dopo, o tanto tempo magari, è un po' di criterio anche. Se no te lo fanno a pezzi il computer. Oh, mai come il 98. Il 98, a parte che era una copia a umma, no? Praticamente io non avevo CD. Il tecnico Filibus operativo ci faceva centinaia di computer. Ma me l'hanno fatto a beffa quel Windows 98 nel 2000 e 2001. A beffa. Era un colabrodo. Infatti poi me l'hanno proprio danneggiato a livello software e ho dovuto formattare. Colpa mia, vabbè, ero inesperto. Sì, anche io sono inesperto su questo, ma al limite, boh. Già c'è mia nipote, se mangiare, se non me ne piace del tutto, la vedete di caio, ogni tanto viene qua, si diverte, usa il computer, fa quello che vuole. Magari se vediamo un pochettino, non lo so. Io, fino a sta funzionando, l'ho visto fino a oggi. Ma vediamo un pochettino, a lei gli piace quello piccolino che ho io portato e te lo faccio vedere quello che ho pigliato, e quindi quello grande lo sto usando poco e niente, perlomeno l'ho usato solo per guardare quanto costava il 19,69, cazzo, 25 euro, te lo immagini un finale cazzo che costava 5 euro, 25 euro, cazzo, adesso boh. Cosa vuol più comprare un cazzo di componenti? Il 2SC1969, ma originale, originalissimo? E dove l'hai preso? Non l'ho preso, se tu vai su internet, scrivi transistore, 2SC1969 ti appare la cosa. 25 euro voglio. Allora, i negozi di solito, tranne qualche raro caso, hanno dei transistor cinesi imitazione che si vedono che sono falsissimi, le scritte sono diverse, la forma è diversa, un po' gli intagli sui lati dell'alluminio sono, sulla piastrina di alluminio sono diversi, te li fanno pagare 10 euro, però poi sono porcherie, ti si fulminano subito, tra virgolette, no? Allora, i privati, tipo CBU radiatori, si sono fatti piano piano la collezione di 2SC1969, probabilmente li vendono a 20 o 30 euro l'uno, ecco. Poi, i rari casi in cui sono originali, li paghi, c'è poco da fare. Comunque, qualcuno aveva inventato l'escamotage, Antonino. L'escamotage puoi lanciare il 1607, che è uguale. Anche se era meno watt, la verità, forse era 20, era 10, 15 o di più, montare il 27 watt, tutto è uguale. la stessa cosa, quindi purtroppo o li metti quello o li metti l'altro, due sono le cose, devi cambiarli la base del vestitore, perché dall'MF477 all'altro ce l'hai, devi cambiare la binatura e basta. Mamma mia, l'MRF 477, quello tondo con le lette a croce, con l'aborto. Non è tondo, è come il 1969, solo che leggermente appena più grosso. Sono precisi, solo che uno da 50 watt, l'altro da 20. Non sono uguali, capito? Infatti la differenza è poca. Ok? Allora, lo dico subito. Allora, c'è da cambiare, allora, al centro c'è la base, il connettore, la base a sinistra e il connettore a destra, e invece le 21, vabbè, 21 situazioni ce la tagliamo proprio un cazzo, vabbè, se non è stata roba è diverso, è il contrario, comunque sia... È un bel casino pensarlo così. Allora Antonio, segui. Allora, per il 1969 quell'apparecchio di cui ti avevo parlato, non andava in trasmissione, montava i due SC 1969, ne montava due. Poi con l'evoluzione la casa lo ha fatto con gli MS, mi pare, qui lo dico, qui lo nego, 1307, MS 1307. Incompatibili. A sua volta, o a loro volta, questi MS1307 pare siano pin to pin compatibili con gli, aspetta sera, IRF oppure ERF, mi pare IRF 5020, una cosa del genere. Limite devi modificare appena appena le tensioni, una cosa del genere. Io di più, che mentre gli IRF 5020 gli altri poi non lo so se è vero, sono meno adatti in 27, sono più adatti a un utilizzo dai 20 MHz in giù o al di sotto dei 20 MHz, quindi lì erano ideali, ma non ho più saputo niente. Non ho capito, ma a me va bene che diciamo 69 la verità, va benissimo, solo che 25 euro cazzo, costavo 5 euro me. A ci pensi, tu comprava 5 euro 4 volte che volevi prima, ma fa un culo a loro, cazzo, i nove gliel'ho fatti, cazzo, bastardi, quello mi dà fastidio, cazzo, ma dipendevano 21,66, cioè 1,66, quanto ne volevi a 5, più che 21,66 costava 1,50 euro, il pilota, del Saturn, ecco. Allora, ho visto che c'è ES a Radio Hotel su eBay che li vende 18 euro. Se la foto è quella, cioè se il finale corrisponde alla foto, sembrerebbe lui. Io non lo so, non so nemmeno se ce l'è ancora. Allora, i più scaltri, quelli che se la sono fiaggata, siccome c'erano molti apparecchi con quei finali, se li sono comprati a 5 euro negli anni, no? E adesso chi ne ha una ventina, chi ne ha una trentina, però li vendono a caro prezzo e certe volte solo a chi vogliono loro, capito? Ho capito, anche se non è giusto, ho capito. Cosa così, me lo ricordo anch'io, guarda, sai quanto mi ha dato, diciamo, voi sentavo meglio, ne è piazzato. Lasciata, guarda, ha fatto male, guarda, quella volta lì hanno conservato i baracchini per pezzi, ti giuro, guarda, avesse stato il finale, mi avrei messo a posto di altri apparecchi, potrei pagare 25 euro. E coglione io, una volta quando riparavo i baracchini, non farei pagare i finali di più, ti giuro. E costavo una cazzata, costavo 3, 4 euro, 5 euro, quei 19,69. Ma se mi fanno pagare 25 euro, sto scherzando, cazzo, cos'è oro diventato? Boh. Non è possibile, cazzo, non è veramente possibile. C'è una furberia, guarda, che non hai idea, sui componenti, cazzo, adesso è diventata. A vecchi più ladro, sì, Antonè, anche i 1307 o più raramente originali. Però se, come ti ho detto io, no? Se i 1307 sostituiscono, è perché lo so, i 2CC 1969 e a sua volta lì arrivo, ma se gli IRF 5020 o simili, no? Sostituiscono i 1307 perché sono pin-to-pin compatibili, allora quelli che li vendono a 25-30 euro se li sbattono a culo, capito? A parte che i MOSFET puoi salire anche un po' più di potenza e non saturano. Lo so, allora invece cosa faccio io? Faccio più furbo allora. Vado nel sito dove ci sono i lineari a 30 watt, che montano 19,69, siccome costano 20 euro quei lineari. Mi prendo direttamente il lineare, attacco il finale, il lineare è un lampo. E molto bene, Marco. Ma se mai faccio una bella ricerca di quei lineari a 30 watt della ZG, che montano 19,69, e ti faccio vedere che... e me ne piglio 5-6 di collineari a 15 euro lungo e se mi attacco i finali e me li vendo a 25 e poi se ce li butto. Antone, i B30 costano circa 30 euro l'uno, dove che costano 15 euro l'uno? E io ci sono i B30 in giro, non ti preoccupare, ce ne sono quanti ne vuoi a Sassari. E quelli hai B30, ce li hanno, non li usano perché non servono a niente. Me ne faccio male qualcuno, da qualcuno che ce li ha, non è neanche l'attivato mio, qualcuno c'ha addirittura delle, di quelli hai, come si chiamano, quelli piccolini, che monta l'MRF 407, il 477. Ecco, fino a quello ci lo metto direttamente nelle baracchine, faccio prima. Tony, ma l'MRF 477 non era quello il B150, che è praticamente tondo e ha le lette dorate a croce? No, quello è il 455. Il 477 lo monta, il lineare della CTE lo monta, anzi lo monta a 4 addirittura. Di quei finali, mi sembra che le 100 watt o 100 watt, se non mi ricordo, quando si brucia, perché si brucia solamente uno, non tutti gli altri, quindi rimangono 3 o 4 quelli che ci sono. Allora, io non so se gli attuali CTE 747 siano cambiati, fatto sta che sai cosa ci trovavi dentro il CTS 747, un RM Pile 203 con tanto di marca RM Italy scritta sul circuito, capito, sulla vetronite o quello che è, ed era venduto con CTS 747, allucinante. E con le evoluzioni non lo so se siamo cambiati. Con questo, Antonio, ti saluto, dai, che vado a mangiare. Ah, e guarda che montano 61307. Montano o montavano gli MS1307? Ero proseguito perché ero in bagno e mi stavo pisciando addosso. Allora, comunque sì, adesso lunedì, non domani, domani domenica. Ogni mattina vado a Tonino. E mi chiedo se c'è pezzi di ricambio, c'è pezzi di cambio. Qualche viene bruciato, che gli hanno restituito, cosa del genere. Mi faccio fare il lineare, mi attacco i finali, mi ricontrollo da uno a uno, mi attacco uno con l'OK e ci metto l'originale. E se l'altro OK in culo, se no li metto un 1969 con l'OK. Già capita, no? Tanto ce la faccio a... Io ce l'ho mio, un 1969 qua di un B30, 30G addirittura, è che non voglio staccarlo, la verità, se no l'avrei messo per il baracchino, perché se vuoi io l'aggancio adesso e ti faccio vedere che esce, mezzo batte però arriva a casa tua, con quel baracchino lì, con quel presidente. E intanto cacciavo l'isolamento di pilota, diciamo, il punto di situazione che sta funzionando. Ehi, Antonio, mi ha chiamato per mangiare, mamma. Ti volevo dire che nel CTS 747 all'interno c'è un RM Italy KL 203, c'era. Poi sui 747 attuali non lo so. Vabbè, Antonio, dai, sto chiudendo. Vabbè, va. Cioè, non ti preoccupare. Dai, dimettono la attiva domani sera. Non ti preoccupare. Comunque, ti hanno buso quel coso, no? Ho detto, ce la faccio per 5 euro a spendere... Però finale di cazzo che costava 5 euro, 6 euro, non di più. Già che la Tonino mi faccio fare, siccome lui ogni tanto qualcosa di ritorno indietro, così me lo straccio e mi arrancio. Tanto se tira sulla Giovanna, gli arriva domani mattina, 19.69, già, è passati 6 mesi con Claudio, figurati che cosa aspettare io. Comunque, che baracchino è? Il presidente Jackson, quello che c'ho io, già l'hai visto. È nuovo, il presidente Jackson è nuovo, è un peccato lasciarlo così. Gli hanno messo 20-38, che non c'entrava un cazzo, gli hanno messo 21-36 originale. E lì va bene. Gli ho messo 19-69 così, tanto per farlo, cioè, per avere a me la mezzo map, e visto che esce anche la M, esce in tutto. L'unica cosa che non mi dà potenza e basta, perché il finale è bruciato. Il finale funziona, ma il finale è bruciato. Beh, se fossi io li spenderei anche 30 euro di finale per salvare un President Jackson. Lo so, ma cazzo, 25 euro un conto, costava di meno, costava, cazzo, 19.69. Cazzo, se non siamo fatti loro questi finali adesso. Vabbè, insomma, già poi domani sento con gli altri lami e ti faccio sentire quel barattino là, canciato con il lineare da 30 watt. Che mi senti tu? Va bene, per adesso quelli ti, dai, ci sentiamo. Vabbè, non mi attira, se ti alzi presto, verso le 10:30, 11, ti faccio sentire che esce con l'apparecchio. Esce anche bene.